Dunque, vediamo un po' affrontare un problema diverso da quello degli altri giorni, un problema che riguarda sostanzialmente l'effetto di nuovi reagenti, cioè noi non possiamo più utilizzare quei reagenti che usavamo una volta per fare le reazioni per vari motivi, sono nocivi, sono costosi, non si sa come smaltirli nell'ambiente. Di tutto di più. E quindi dobbiamo in qualche modo tentare delle vie alternative. Allora, alcune di queste vie alternative in realtà ci sono. Uno dei composti organici, dei gruppi funzionali organici più utili in chimica organica, è dato dal gruppo degli alogenuri. Perché dagli alogenuri alchilici, per esempio, ci fai un sacco di cose. Quindi la sintesi degli alogenuri prevede ovviamente che tu utilizzi un qualche reagente fatto di alogeno. È chiaramente l'acido bromidrico, il bromo, il cloro, per carità, il fluoro non ne parliamo nemmeno, sono reagenti complicati, quindi bisogna trovare qualcosa che in qualche modo ci aiuti ad evitare l'utilizzo di questi composti. Sostanzialmente l'idea è questa, io ho un alchene. Lo tratto con bromo, ci metto anche del tetracloro di carbonio, solitamente. La mia idea è quella di ottenere un dibromuro di questo tipo qua. Questa potrebbe essere una reazione. Questa reazione qui così non si può fare, perché chi ce lo versa il bromo nel reattore, sebbene oggi i reattori siano di porcellana e quindi il bromo lo resistano anche bene, oppure di vetro, ma è innanzitutto il bromo è un gas che si comporta come un liquido, te lo respiri, ti casca su una mano, si sviluppa l'acido bromidrico, la mano è piena di doppi legami e quindi te quella reazione lì ce l'hai poi addosso, sulla pelle, nei polmoni. Bisogna evitare di respirare sta roba, si cerca di non farlo, ma qualche volta potrebbe succedere e siccome la green chemistry, come abbiamo detto la prima volta che ci siamo visti, prevede che l'operaio, per quanto possa essere bravo, non è in grado, cioè fa degli errori e quindi bisogna metterlo in grado anche nell'istante in cui fa degli errori di non morire. È per questo che sono i reagenti più blandi che devono essere utilizzati e meno pericolosi. Questa reazione non si può più fare. Allora come si fa? Su alcuni libri di Green Chemistry io ho per esempio trovato in alternativa questa reazione. Io ho benzene, CH, doppio legame CH, benzene. Difeniletilene lo potremmo chiamare. Allora, difeniletilene. Il difeniletilene, se io voglio ottenere un dibromo di feniletilene, CH, BR, questa reazione la devo fare in un modo che non sia pericolosa. Questa reazione è talmente banale, poi fatta in laboratorio, che si fa fare negli Stati Uniti, in America, ai corsi di Green Chemistry, quindi evidentemente senza l'uso del bromo. In realtà, loro come fanno? Loro dicono, prendo l'acido bromidrico, ci metto dentro l'acqua ossigenata, viene fuori bromo un po' per volta ed il bromo è quello che darà la mia reazione di addizione al doppio legame attraverso la formazione del solito intermedio di reazione che è lo ionibromonio, che verrà poi aperto dalla seconda molecola di Br- come nucleofilo, dando l'1, 2 di bromo qualcosa, ma in questo caso gli 1, 2, ovviamente atomi di bromo entrano in posizione antiperiplanare, lo dico a voce perché tanto te lo sai benissimo, quindi non c'è bisogno che io stia a perdere tempo su queste cose. Anche se il tempo in realtà non si perde, primo perché il tempo non esiste secondo la fisica moderna e poi perché il tempo non ha un prezzo. Non è che siamo in America, spend time, spendo del tempo, non ha senso, il tempo che sospendi, non c'è valore del tempo. Vabbè. E questo per dire come può essere una cultura chimica americana diversa da una cultura chimica europea. E ti dicono che questa reazione avviene così. No, non avviene così. Chi scrive sovente i libri di Green Chemistry è un chimico industriale sovente statunitense, sovente non ha capito niente, perché la chimica organica la sanno in realtà in pochi. Questo perché è una cosa difficile, e quindi la gente vede dei meccanismi di reazione, vede dei prodotti di reazione e pensa che i meccanismi siano semplicemente andati così come c'è scritto. Allora, l'acqua ossigenata, l'acido bromidrico, si forma il bromo reagisce. No, non funziona così, anche perché loro prendono l'1,2 di feniletilene e ci aggiungono che cosa dentro? Ci aggiungono l'acqua ossigenata. E allora l'acqua ossigenata non è che vede il doppio legame, sta lì e non fa niente. Loro dicono si forma un precipitato. Poi quando ci aggiungono l'acido bromidrico il precipitato si riscioglie. Ma che strano. Allora cosa succede in realtà? La cosa più semplice succede che questo particolare alchene con l'acqua ossigenata, secondo questo meccanismo classico, le frecce sono così, forma l'epossido corrispondente, cioè l'ossido dell'olefina con l'acqua H2O. E già noi capiamo una cosa fondamentale qui, no? Capiamo come non sia stato l'eventuale acido bromidrico, cioè l'H+, perché l'H+ è hard, con un alchene così conciato, che è strasoft, certo che ci reagisce, poverino, ma con la lentezza della Madonna. Invece l'acqua ossigenata, o meglio, il doppietto dell'elettrofilo, l'ossigeno meno 1, che è un elettrofilo, attacca il doppio legame soft e fa subito l'epossido. Dopo l'epossido, poverino, cioè, ci metto l'acido bromidrico, è chiaro che l'H+ si complesserà al sito basico dell'epossido, si formerà questo signore qui, e il controione è il Br-. Quello che succede è questa cosa qua, RCH, ovviamente OH dopo idrolisi, siamo nell'acqua, quindi Br, R, e si forma l'aloidrina. E qualcun altro potrebbe pensare, vedi, l'acido bromidrico più l'acqua ossigenata ha formato il bromo. Il bromo con l'acido bromidrico fa quella classica dismutazione che c'è, cioè il bromo nell'acqua che dà acido ipobromoso e acido e Br-, cioè ipobromito e Br-. E quindi l'ipobromito reagisce con il doppio legame per dare lo stesso prodotto di reazione. Vedi che sostanzialmente poi, anche se il meccanismo fosse diverso, il prodotto è sempre lo stesso. Ma qua mi trovo con questo H qui, e qui c'è un fenile. Ecco perché in laboratorio ti fanno fare questa reazione con i due fenili, perché se la fai con due metili non viene, a parte che due metili no, perché il butene cis e trans in miscela sarebbe gassoso, quindi non fa, non si usa in questa reazione. Ma gruppi R più grossi te li potresti utilizzare? No, ci mettono due fenili, perché? Perché se no non c'hai alcol benzilico. E cosa ti serve l'alcol benzilico? L'alcol benzilico è un povero alcol, di quei pochi alcol che trattato con l'acido bromidrico concentrato fa il bromuro. Perché? Lo ripetiamo, l'H+ protona R, si forma l'alcol protonato, CH, Br, R, questo se ne va, il Br- dell'acido bromidrico entra, sostituisce con una sostituzione nucleofila monomolecolare e il risultato finale è, guarda caso, il prodotto che te credevi di aver ottenuto con un altro modello di reazione. Si sarebbe formato poco, per la green chemistry, poco bromo per volta, che quindi non sarebbe pericoloso, e questo poco bromo per volta, essendo giustamente soft, attacca al doppio legame e fa la reazione. Invece le cose sono un pochino più complesse. Che cosa ci fa capire questo? Quando io leggo questo libro dove c'è scritto questa roba, libro moderno, è che la green chemistry nasce sovente come chimica fatta da chimici industriali, e i chimici industriali hanno una caratteristica, o comunque ce l'avevano fino a qualche tempo fa, storicamente, non gliene frega niente dei meccanismi di reazione. Loro basta che ottengano un prodotto che poi lo venderanno sul mercato, perché il vero prodotto del chimico industriale sono i soldi. Il vero prodotto del chimico organico sono la soddisfazione di aver fatto una strana reazione che non aveva mai fatto nessuno. E su questo non c'è ombra di dubbio alcuno. Sono due modi di vedere la chimica differenti. Non ti dico che uno è giusto e l'altro è sbagliato, però sottolineo questa differenziazione che è importante. Il vero agente alogenante è dunque l'acido ipogromoso. Girala come ti pare. Ma allora, se questo è vero, l'acido ipogromoso può essere utilizzato perché sostanzialmente ipogromoso, ipocloroso, se ti vuoi fare la colorazione, cioè sostanzialmente la varechina, può essere utilizzata a basso costo e anche con un rischio decisamente notevole da parte dell'operaio, perché un conto è usare il cloro a meno 50 gradi liquido e un conto è usare la varechina. Certo, ci metti una mano dentro nella varechina, un po' di fastidio ce l'hai, ma è sicuramente molto meno complicato che non gestire soluzioni di cloro o di bromo. Soluzioni di iodio non le potresti neanche utilizzare perché lo iodio non si scioglie da nessuna parte. I due, è un cristallo che lo butti nell'acqua e sta lì. Il fluoro non lo puoi utilizzare perché ti distrugge le pareti di vetro del reattore. Quindi con questo sistema, una volta che noi abbiamo capito come possiamo lavorare con l'acido ipogromoso e ipocloroso, forse possiamo fare qualche piccola variante e usare anche l'acido ipofluoroso o una molecola simile, ovviamente, e l'acido ipoiodoso, o comunque un bromo più e un fluoro più fatto in particolari condizioni. Morale della favola: se io devo fare una reazione di alogenazione, non posso usare nell'industria, o non posso, cerco di non usare bromo classico e AlCl3, reazione di Friedel e Kraft. La bromurazione, no. A me cosa serve? Un Br+. A me un Br+ chi me lo dà? Ma me lo dà anche l'acido ipogromoso, perché l'acido ipogromoso è HOBr. Se io tratto l'acido ipogromoso con un acido forte, che è H+, quello che succede è HOH più Br. E quindi si formerà una molecola di acqua e lo ione bromo più. Lo ione bromo più si è formato. Sono in acqua. C'ho il benzene, che cosa volete che succeda? E si forma il bromo benzene. Quindi, alla fine, io ho la mia reazione. Come sappiamo, questa non è una reazione reversibile per gli effetti stereoelettronici che abbiamo visto la volta scorsa, da tenersi gelosamente nascosti per fare bella figura ai colloqui, che tanto non le sa nessuno queste cose, ecco, e che ti trovi, insomma, una bromurazione di un anello aromatico fatto in una condizione migliore. Ma non solo, questo sistema potrebbe dare dei buoni risultati con gli anelli aromatici, soprattutto quindi con atomi di idrogeno legati a carboni ibridati SP2, ma anche ibridati SP3. Il problema è questo: RC triplo legame CH. Come trasformo questa molecola in quest'altra? Questa potrebbe essere una reazione di un certo interesse. Io so che questo è un idrogeno acido, lo posso strappare in qualche modo e poi sostituirlo con un bromo più. A questo punto ho fatto una sostituzione elettrofila. Già, e il reagente chi è? Non è che posso prendere questo, come si faceva nei vecchi tempi, trattarlo con sodio idruro, farne l'anione, devo usare il tetraidrofurano distillato, l'anione lo faccio reagire col bromo, il bromo si polarizza più delta meno delta. Esce il sale nell'industria, il sale poi va tolto, l'NABR va filtrato e ti posso assicurare come sia complicato filtrare l'NABR. No, anzi, lui è uno di quei sali che precipita bene e lo filtri bene, ma te ne rimane sempre un po' nel farmaco che stai facendo e quindi non lo puoi vendere perché c'hai l'NABR che ti rompe le palle. Quindi, alla fine, sì, te ottieni RC, triplo legame CBR, però c'hai il sale che ti rompe le scarpe. E hai dovuto usare il tetraidrofurano, l'hai dovuta fare sotto azoto la reazione, l'hai dovuto distillare il tetraidrofurano, che il tetraidrofurano non è che si distilla come il benzene, lo distilli, se ne va l'azoto con acqua benzene, il tetraidrofurano è solubilissimo nell'acqua, l'acqua non ce la togli, quindi lo devi distillare su diciamo di idruro. Nell'industria di diciamo di idruro non lo può neanche tanto vedere. E allora si potrebbe provare a farlo in quest'altro modo. È certo che si può provare a farlo in quest'altro modo e ha anche un certo successo questa reazione, perché la puoi fare con una difficoltà 0,0 rispetto a quella che abbiamo visto ora, cioè ipobromito e acetilene, R-C-tri, legame C-H, ci metti l'NaOH dentro, te lo sai che questa è una reazione che è tutta spostata verso i reagenti e non verso i prodotti. Ma una molecola nell'universo, una poverina, questo lavoro lo fa. Come questa molecola ha fatto questo lavoro? Eccola, che noi abbiamo l'acido ipobromoso o il corrispondente ipobromito, ripristina l'OH- che se ne va qui, e quello che tu ottieni è il tuo prodotto. In parole povere, prendi l'alchino, lo metti nell'NaOH e il bromo, o meglio, nell'ipobromito di sodio in ambiente acquoso. Tutte le volte che c'hai l'ipobromito di sodio in ambiente acquoso, c'hai anche un po' di bromo e un po' di acido bromidrico. Sei in ambiente basico, quindi ci avrai il bromuro e l'ipobromito. Però tutte le specie ci sono, ma sono in quantità catalitiche, quindi praticamente non vedi niente di prodotti estremamente pericolosi. C'è un altro aspetto della questione che non va trascurato. Quando io faccio la reazione nell'altro modo, il bromo vede il triplo legame, lo riconosce come ambiente soft e ci si aggancia. Quindi, mentre te stai facendo la tua brava reazione, cioè stai facendo reagire l'orbitale C- questo, che è un orbitale SP, quindi abbastanza hard, con il bromo che è extra soft, il triplo legame carbonio-carbonio che è extra soft, gli garba anche a meno 20 gradi cominciare ad agire col bromo. E quindi tu alla fine hai una reazione di addizione in cui ci sono tre atomi di bromo, almeno uno qui e uno qui. Solitamente non potrai avere un'altra addizione di bromo, perché quando il bromo si è agganciato al triplo legame e ha fatto l'alchene, l'1,2 di bromo alchene, questo è un alchene un poco reattivo. Perché? Perché noi cosa sappiamo? Attenzione a facciamo un paragone. Il paragone è questo. Quando io tratto questo con idrogeno, nelle opportune condizioni catalitiche, col palladio, eccetera, eccetera, te c'hai questo e come te ben sai, non ti fermi qui ma vai ad alcano. Perché ovviamente ci sono delle problematiche che ti dicono che l'alchene reagisce più volentieri se te non fai qualche trucco, cioè non ci metti il palladio di Lindner qui sopra, vai in fondo. E invece col bromo no, col bromo te ci metti il Br2 e ti fermi qua, a meno che tu di bromo non ce ne metta una tonnellata, Allora... Allora chiaramente la reazione va avanti, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente il secondo step della reazione è più lento del primo, mentre nella idrogenazione il secondo step della reazione era più veloce del primo. Questo perché? Per il semplice fatto che questo è un alchene sostituito da gruppi elettronattrattori, quindi da una parte e elettrondonatori insieme. In parole povere, questo è stabilizzato da un sacco di formule di limiti di risonanza che fanno scomparire, a chi guarda tutte le formule di limiti di risonanza, fanno scomparire l'idea che questo sia un vero doppio legame, perché non c'era più la reattività di un doppio legame. E sostanzialmente quindi andare avanti, sì, si può ovviamente, per fare un tetrabromo o qualcosa, ma è più lento il secondo step della reazione. Anyway, il primo step della reazione, te non riesci anche a meno 20 gradi, c'hai sempre un 20% di prodotto di addizione di bromo al triplo legame. Sicuramente una molecola che ha tre atomi di bromo con una molecola che ne ha uno solo attraverso processi di separazione cromatografica lo puoi eliminare facilmente, cioè puoi purificare facilmente questa cosa, però perdi materiale. Ecco. Nell'altro caso, no. Oh, questo ci fa venire in mente che noi basta che si abbia qualcosa che ci dà un bromo più, che siamo contenti. Quindi l'acido ipobromoso va bene, oppure qualsiasi altra cosa. Allora, noi c'è un reagente, facciamo un esempio, c'è un reagente che è un reagente alternativo perché ci aiuta a fare il bromo più, o anche del cloro più ovviamente, che noi utilizziamo per tutte altre cose. Allora, facciamo un esercizio. Siamo usciti dal capitolo che diceva come utilizzare sostanzialmente prodotti di partenza rinnovabili, come, che ne so, la canna da zucchero, e allora mi potrebbe venire in mente di fare questa reazione. Se noi prendiamo questo composto altro non è che il composto che viene da un glucoside di partenza, 1, 2, 3, 4, vedi? Questo potrebbe essere l'eritrolo o il treolo, quindi sostanzialmente un glucoside di facile reperimento. Sappiamo come trasformare due gruppi OH in un doppio legame, l'abbiamo visto la volta scorsa, e sappiamo che questa molecola, se io la tratto con metanolo e porto via l'acqua, essa si trasformerà in questo signore, ecco, O metile. Bene, questo è un prodotto commerciale che non costa niente, perché sostanzialmente questa reazione si fa in un colpo solo. Però questo composto qui è un sintone C4 che deriva sostanzialmente dallo zucchero corrispondente, dal glucosite corrispondente, e ci serve per fare un sacco di cose. Facciamo un esempio. Se io tratto questo con il cloruro di trimetilsilile, scriviamolo per una volta così com'è, silicio, metile. Questa molecola ha una caratteristica. Allora, il cloruro di trimetilsilile è come il cloruro acilico, è come un RCOCl, ha la stessa reattività. Il silicio ha un'elettropositività della Madonna, quindi è hard, estremamente hard. Bene, quello che succede quando io ho un gruppo così fatto, ROR', e lo tratto con un alogenuro X di SIRRR, la cosa che accade è che si forma RX più O. R', SI, così. Questa è la reazione. Allora, il cloruro di trimetilsilile non è sicuramente l'acido bromidrico, non è sicuramente il bromo. L'unica cosa che può avere, ma che ha anche il bromo, è la sua volatilità, sostanzialmente. Però noi la possiamo comunque migliorare mettendo questa roba in soluzione, quindi se ne diminuisce la tensione di vapore, e poi utilizzando un alogenuro che potrebbe essere bello pesante, come lo iodio. Questa reazione è una reazione buona perché serve per fare un sacco di cose. Se io uso, per esempio, nella chimica organica un etere come gruppo protettivo di un alcol, io sono riuscito a trovare un sistema per tornare indietro, cioè per riottenere quello che sarà l'alcol sotto forma di miotrimetilsilil derivato e RX, che è il gruppo che lo proteggeva. Da questo punto di vista, quando io tratto questo composto fenile o metile con il cloruro di trimetilsilile, siccome ho un etere non simmetrico, il cloruro di trimetilsilile decide di fare una delle sue delle due cose che può fare. Il cloro si attaccherà al fenile o si attaccherà al metile? E il trimetilsilile? Allora l'unica cosa che può accadere è questa. O trimetilsilile, metile CL. Che cosa è successo? Beh, si vede chiaramente che se questa reazione o ha caratteristiche SN1 o ha caratteristiche SN2, ma in ogni caso non si può mai formare qualcosa che assomiglia a un carbocatione del benzene. Ma in questo contesto, tra due improbabili carbocationi o like carbocationi, quello che preferisce reagire come ipotetico carbocatione che posso scrivere sulla lavagna è il cloruro, è il metile, quindi il metile farà il cloruro e l'altro, il fenile, farà il trimetilsilile. Su questo non c'è dubbio. Questa è la reazione fondamentale. Prendiamola come punto di partenza, ma aggiungiamoci anche questa informazione. Se io ho il tetraidrofurano e lo tratto con il cloruro di trimetilsilile, e la reazione meravigliosamente condotta fornirà O trimetilsilile X. Quindi una molecola ciclica come questa io l'ho trasformata, aprendola selettivamente, in una molecola bifunzionalizzata 1,4. Da una parte c'ho un alcol protetto e dall'altra parte c'ho un alogeno alchilico. Quindi posso utilizzare ancora un eterociclo per farci delle cose. Ricordiamoci che questi eterocicli qui di tipo tetraidrofuranico vengono proprio da quelle reazioni che avevamo fatto con l'oxilolo. Quindi che meraviglia! Ci possiamo fare di tutto, voglio dire. Analogamente, quando qui c'ho un gruppo R e qui c'ho un XTMS, che cosa succederà? Succede questa cosa qui, sostanzialmente. Tenetelo presente questo, perché vi può essere utile nella vita. Il silicio, che è estremamente elettropositivo, si complessa in qualche modo qui e tende a liberare X meno così. È evidente che questo X meno, come si vede, è bello grosso, R, qui c'è un centro stericamente ingombrato, qui c'è un centro stericamente meno ingombrato. Se questa reazione ha caratteristiche SN1, quello che succede è che si formerà OTMSR+, che ovviamente darà origine a questo. Se la reazione ha caratteristiche SN2, quello che succederà è che si formerà questo così. Chi è che decide chi? Ovviamente il solvente, no? Ma ovviamente X. Perché? Se X è fluoro, le sostituzioni sono nucleofile, no? Quindi è chiaro che il fluoro finirà a fare una SN2. Se X è iodio, chiaramente finiremo qua. E vi posso assicurare come tra lo iodio e il fluoro ci sono proprio queste due differenziazioni. Lavorando bene sul solvente si riesce anche a ottenere ottime rese, cioè una regiochimica elevata di questa reazione qua. Quindi ve lo dico perché può essere utile questa reazione. Per questa reazione, se te non la conduci in modo green come questo, la puoi fare con il cloruro di acetile. Il cloruro di acetile è sostanzialmente la LCl3, fanno la stessa reazione che fa il cloruro di trimetilsilile. Il cloruro di acetile, qui c'è la compensazione con il CoR più X meno, funziona così. In queste condizioni di reazione, da una parte tu avrai l'estere, CoR, e dall'altra parte avrai l'alogeno. Però devi usare il cloro d'acetile. Il cloro di acile è un cloruro di un acido, il cloro di un acido, lo vedremo fra un attimo, si fa con dei reagenti complessi, perché sono il fosgel, l'SCL2, il PCL3, e quindi è una reazione che comunque diventa sempre in tetraedro furano, che te usi come solvente, come reagente, diventa una reazione, insomma, complicata. Invece qui la fai molto velocemente, questa è molto più veloce di questa, e dà una selettività, una regiochimica superiore. Questo è per introdurre quello che stiamo per fare qui. Bene, allora, ora che sappiamo la reattività, ora che sappiamo la reattività di questa cosa, noi possiamo fare questo: prendere questo signore e trattarlo col cloruro di tripetissimi, goccia a goccia, plip, plip, plip, plip, plip. Quello che succede è che qui facciamo reagire uno solo dei due, ovviamente. Quello che accade è che si forma questo più il metilcloruro. Perché la reazione ha questo andamento, questa regiochimica? Perché sostanzialmente noi facciamoci prendere la mano dall'idea di dove andrà a finire la carica positiva dell'ipotetico carbocatione che si forma. L'ipotetico metile più primario non c'ha tanta voglia di formarsi, si formerà mai. Ma invece si forma il carbocatione con la carica positiva qui sopra in posizione 2 all'eterociclo di idrofuranico, perché c'ha una formula limite di risonanza. La scriviamo. Così. Oppure così, si capisce bene, no? Che questo è il carbocatione che subito tenderà a formarsi. Come si forma questo signore qui? Questo elimina acido cloridrico. Così, e quello che succede è si forma questa cosa qua, O metile. Pensa che per fare un tetraidrofurano con l'O metile in posizione 2, la non green chemistry parte dal furano. Quindi parte da un prodotto che viene dal petrolio, non parte da un prodotto ecosostenibile che viene dall'ossilolo. Non solo, ma come lo fai? Prendi il furano e ci metti l'acido bromidrico e il metanolo dentro. L'acido bromidrico e il metanolo a contatto con il furano fanno lo stesso intermedio di reazione che noi abbiamo ottenuto di qua. Perché il furano reagisce con l'H+, forma il carbocatione, furano, forma il carbocatione, quindi H+, questo si sposta di qua e il metanolo si attacca di qua. In quel contesto, non appena si è formato questo, ecco che si libera l'acido cloridrico e noi otteniamo lo stesso prodotto di reazione. Quindi il meccanismo porta attraverso un intermedio comune allo stesso prodotto, ma ora l'abbiamo ottenuto in un modo più semplice, monotonico, perché noi insistiamo e continuiamo ad aggiungere cloruro di trimetilsilide. E a questo punto, questa molecola qua, con il cloruro di trimetilsilide, fa trimetilsilide ossigeno, questo è ancora metile cloruro, come prima. Questi legami non si possono rompere perché sono SP2, quindi l'anello furanico rimane salvo. Ma questo signore qui, che si otteneva per delle vie complessissime da un altro punto di vista, è un trimetilsilile non etere. Allora, o meno, o che quando viene trattato con un elettrofilo, l'elettrofilo si appiccica qui e te ottieni ossigeno, elettrofilo con un H. E hai ottenuto questi famosi gamma lattoni che servono per fare tutta la chimica del mondo. Ebbene, se io al posto, e guarda come l'ho presa alla lunga, cioè te ci puoi mettere quello che vuoi, ma la mia idea era metterci il bromo al posto dell'elettrofilo. Se io al posto di 10 voglio mettere un bromo più e quindi formare un composto con il bromo qui, che avrà la possibilità di essere un prodotto di partenza, una finestra aperta sul mondo, perché a secondo che farai, avrai intenzione di fare il giro legame carbonio-bromo, questo saprai con i Grignard, con gli attivi di Grignard, come fare. Se vuoi fare agire un doppio legame qui, lo potrai fare agire. Se vuoi fare agire un 1,4, sai come fare. Se vuoi fare agire semplicemente l'estere, sai come fare. Qui attaccheranno nucleofili hard, qui attaccheranno nucleofili soft. C'hai una molecola che ti permette di fare un milione di cose. Benissimo. Allora, il bromo ci piaceva. E per metterci il bromo, però, su una molecola fatta così, ossigeno, così, metterci in questo conto, questo era il sintone corrispondente che io devo utilizzare, se io uso il Br2, ecco che c'ho un problema. Questo doppio legame qui, come faccio a lo dovrei proteggere, una serie di passaggi in più, incasinati. Non posso usare l'acido ipobromoso perché non posso fare questa reazione in acqua. E allora uso bromo NO, l'N-bromo su cinimine. Ah, perché l'N-bromo su cinimine fa così, e questo è un buon gruppo uscente perché la carica negativa sull'azoto è anche ben sostenuta da due gruppi CO che sono gruppi retroattrattori, quindi ci puoi scrivere cinque formule di limiti di risonanza. Non si butta via niente, perché la succinimide che viene fuori può essere facilmente riconvertita in N-bromo succinimide e reagire, quindi non la butti via in questo contesto. E te hai messo un atomo di bromo in questa posizione. Notare una cosa fondamentale. Questa molecola è una molecola stabile, eppure è un bromo acetale. Perché è stabile? È stabile perché gli acetali si aprono. È un po' come il problema dei glucosidi, degli zuccheri, che in acqua sono stabili, no? Ma questa molecola è fatta così, ossigeno, O, H, Br, doppio legame qui, sì, doppietto qui, doppietto qui. Come potete vedere, non c'è nessun doppietto di elettroni dell'ossigeno che si potrà mai porre in posizione antiperipranale al bromo per farlo uscire. Perché se questo bromo qui, la questione è questa, io ho l'acetato, O, R, dietro c'ho il bromo, qui c'ho una roba e qui c'ho un'altra roba. Perché il bromo esca, io devo avere un orbitale qui dell'ossigeno che è antiperiplanare a un orbitale vuoto del legame carbonio-bromo. Lui mette gli elettroni qui dentro e questo esce. Funziona così. È per questo che gli acetali e i loro derivati sono instabili. Perché l'equilibrio conformazionale mi permette di poter fare questa cosa, che la molecola ci guadagna un sacco di soldi, perché in termini di stabilità gli elettroni di questo doppietto lone pair vanno a finire in un orbitale vuoto di antilegame e quindi l'energia del sistema si abbassa. Qui no, perché è tutto rigido. Questo qui sta lì e fa le cose che deve fare. È un alogenuro alchilico, non è un bromuro che deriva dalla bromurazione di un ipotetico emiacetale. Allora, vedi come in questo contesto noi che cosa sostanzialmente abbiamo fatto? Abbiamo usato la green chemistry che ci veniva dall'idea di usare dei reagenti alternativi e la green chemistry che veniva dall'idea di utilizzare prodotti sostenibili in quanto rinnovabili. È evidente in questo contesto la ricerca di reagenti alternativi ha un suo vantaggio economico. Uno può trovare domani mattina un reagente alternativo che fa delle reazioni incredibili. Questo reagente alternativo è non commerciale fino all'istante in cui tu non pubblichi l'articolo che ne dimostra la validità e la potenza. Quando i venditori di prodotti chimici si rendono conto che tu hai fatto un reagente nuovo, lo producono in larga scala, con costi bassissimi, e te lo vendono. Quindi non ti devi far fregare dall'idea, sì, questo è un reagente nuovo, però non c'è, e chi lo userà mai? Bisognerà farselo, bisogna... Le cose vengono... Cioè, il clone di trimetilsilide 30 anni fa nessuno lo conosceva. Oggi te lo vendono a litri, praticamente. Ci sono tutta una serie di reagenti per fare le alogenazioni, che sono reagenti che sono molto più facili da utilizzare che non il bromo. In particolare c'è una classe di reagenti che sono derivati dalla piridina. E uno dice, ma come la piridina? La piridina è cattiva, è tossica, è cancerosa, fa schifo, è solubile in acqua, quindi difficilmente smaltibile. Ti puoi immaginare? Sì, è vero, ma il sale di piridina no. Allora, ci sono, con la piridina ci si fa praticamente mezzo mondo. Io voglio fare una iodurazione. Voglio aggiungere iodio a un doppio legame per fare l'1-2 di iodo qualcosa. Non posso usare lo iodio, perché lo iodio non si scioglie neanche nell'acqua. La cosa che posso fare, invece, è utilizzare un reagente ad alta piridina. La piridina è fatta così. Se io ci aggiungo, per esempio, acido iodidrico sostanzialmente alla piridina, verrà fuori lo ioduro di piridinio, che è un sale. Lo ioduro di piridinio, se ci aggiungo lo iodio, viene fuori un complesso fatto così, in cui il controione è I3-. Questo signore ha una caratteristica fondamentale. È un sale, lo pesi bene, riesci a controllarne anche l'igroscopia, lo secchi bene, e come sale ha quella tensione di vapore che non è pericoloso, perché te, come noi in laboratorio a volte facciamo delle cose che sarebbe meglio non fare, perché tutte le volte che fai una lastrina e la sviluppi con lo iodio, te respiri un sacco di iodio, non esiste. Ora, se uno è malato di tiroide, non credo che la cosa gli giovi, ecco, sostanzialmente. Questa roba sono sali, non hanno tensione di vapore elevata. Lo iodio sublima è la fine. Si pesano bene. Quando te hai bisogno di pesare una mole di I2, pesi una mole di questo coso qui, che corrisponderà a una mole di I2, c'hai I2. Bene, questo composto qui fa le stesse reazioni, qui, I3, fa le stesse reazioni che fa lo iodio, perché è come avere I2 in soluzione. Alla fine, facendolo reagire con un alchene, tu avrai il sale di piridinio, H, ioduro di piridinio, e avrai il tuo prodotto, che non è male. Questo lo puoi fare anche col bromo, quindi acido bromidrico più piridina, BR2, e te immaginati col BR2 come hai eliminato sostanzialmente il BR2, perché te il tuo composto poi te lo compri, non è che lo fa la ditta, l'industria, ma te in laboratorio oppure in un successivo passaggio non hai bisogno di respirarti il BR2, ecco, sostanzialmente è questo il problema. Da questo punto di vista, con la piridina ci possiamo fare un sacco di cose, non solo la reazione di alogenazione, ma ci possiamo fare per esempio la reazione di solfonazione. Perché? Perché io, se voglio solfonare il come si dice, il furano, non posso metterci dentro una miscela di acido solforico fumante, perché il furano polimerizza immediatamente, diventa tutto nero. Allora io ho bisogno, perché capisci che là il clima estremamente acido che c'è nella soluzione prende il furano, che è sì aromatico ma abbastanza poco, e lo distrugge. Il furano si ricorda di essere l'antenato di un viniletere sostanzialmente, e quindi polimerizza. Allora noi possiamo utilizzare un solvente, un reagente che ha la caratteristica di essere un reagente acido, ma la sua acidità è mitigata dalla presenza della piridina, che fa da controione all'acido solforico. È il solfato di piridinio. Sostanzialmente è il sale che si ottiene facendo reagire la piridina con l'acido solforico. Il solfato di piridinio, in condizioni blande, è in grado di solfonare il furano senza recargli grandissimi danni. Analogamente, possiamo fare anche la nitrazione del furano in questo modo. La nitrazione del furano in questo modo, cioè utilizzare il nitrato di piridinio, H più N3 meno. Perché tu in soluzione, siccome c'è un piccolo equilibrio, hai dell'acido nitrico libero, quindi sostanzialmente hai attraverso una serie di equilibri che si formano un pochino di ione nitrogeno che ti si forma, ma ce n'è poco, e quel poco, e soprattutto in ambiente di acidità controllata, perché c'è sempre la piridina che usi anche come solvente o al posto della piridina, che fa un po' schifo, si può usare la trietilammina, perché questi composti poi possono essere avere come controione non solo la piridina ma anche la trietilammina. Una nitrazione del furano fatta in questo modo comunque è una reazione vecchia. Sì, nell'industria sovente si usano ancora queste reazioni piuttosto anzianotte, però se io dovessi fare tesoro della reazione che abbiamo visto prima, il problema è questo: il furano lo faccio reagire con l'acetato CH3COONO2 di nitrosile. Che cos'è questo composto qui? È semplice il composto che è un'anidride mista che io ho ottenuto facendo reagire l'acido acetico con l'acido nitrico, e se ne va acqua. Come funziona in questo modo? Te prendi l'acido acetico, ovviamente cristallizzato, cioè gli hai tolto l'acqua, ci metti l'acido nitrico, che un po' di acqua ce l'ha sempre, agiti e raffreddi. Nell'istante in cui tu raffreddi a meno 40 gradi, l'acqua cristallizza. È un trucco per togliere l'acqua. Filtri e te c'hai questo reagente qui. Questo reagente qui lo metti a reagire con il tetraidrofurano, che non solo si ricorda di essere un agente aromatico, eteroaromatico, non solo si ricorda di essere un viniletere, ma si ricorda di essere anche un diene. E allora fa le addizioni 1,4. E in questo contesto le addizioni 1,4 portano a fare CH3COONO2. Questo è un composto stabile, già, ma guarda che similitudine hai con il composto che abbiamo utilizzato prima. Questo eliminava spontaneamente acido clorifico. Qui c'è un idrogeno acido, tratti con trietilamina e T3N, se ne va questo idrogeno acido, se ne va l'acetato, cioè hai eliminato acido acetico 1,4 e si forma il 2-nitrofurano con delle rese del 90%. Così si fa il nitrofurano. Perché se no, Ma vedi che dietro c'è sempre quel tipo di reazione che abbiamo visto la volta scorsa. Sono composti questi che vengono tutti dalla sintesi dello xilosio, no? Sostanzialmente. Quindi non c'hai poi più bisogno di partire dal furano, perché lo vedi che questo qui è un prodotto che può venire da sintesi di quel tipo lì. I nitrozuccheri esistono, eh? E sono composti estremamente importanti. Analogamente, se te c'hai un composto fatto così, o metile, che l'hai comprato perché non costa niente, e lo tratti con l'acido paratolo enzolfonico, per esempio, no, lo tratti con fenile S, che cos'è questo strano composto? L'ho scritto in un modo strano, eh? Aspetta, lo scrivo meglio. SO2H. Non è SO3H, è SO2H. È l'acido benzensolfinico. L'acido benzensolfinico ha due formule tautomere, in cui l'OH in un caso è attaccato allo zolfo, nell'altro caso, eccolo qua, guarda come si vede bene, ora sembra proprio l'acido benzensolforico. Vedi che questi due sono tautomeri. Bene, quando te fai reagire questo signore sotto forma del suo sale, il suo sale è questo. Oppure il suo sale è questo. Quindi, questo è un sale hard, questo è un sale soft. A secondo con chi fai reagire, attacco o allo zolfo o all'ossigeno. Quindi quando te c'hai l'acido benzensolfinico e lo metti qui dentro, quello che succede è che ovviamente l'H più si appiccica qua. Te sai che si sta creando questa cosa e quindi il metanolo se ne va. E quello che sta per succedere è che ci si attacca l'acido benzensolfinico. A questo punto, l'acido benzensolfinico, questo idrogeno qui, vedi che è come quell'idrogeno che c'è qui. Questo è vicino all'NO2, questo è vicino all'SO2 fenile. Questo è un idrogeno acido, se ne va da solo, come quello che era vicino al cloro. Vedi? Guarda, se ne va il metanolo e te hai ottenuto un gruppo SO2 fenile in posizione 2 attaccato e poi ci farai quello che vorrai. Se lo riduci, fai l'SH, cioè ci metti un gruppo SH lì, uno zolfo in qualche modo, in una posizione che altrimenti non ce la potevi mettere, perché la solforazione è complicata a farla sul tetraedro, sul furano. Hai usato praticamente con la testa la stessa idea che ti veniva dalla chimica dell'ossidosio. Hai individuato che c'è quell'intermedio di reazione, che a seconda che ci sia il cloro, che ci sia l'NO2, che ci sia l'SO2 fenile, dovrai spingere un po' di più, oppure lo fa da solo, ma alla fine ti ridà l'aromatizzazione dell'anello, del furanico. Prese il 100%, queste qui sono. Ma siamo sempre nel campo della piridina. Allora, con la piridina ci abbiamo fatto le alogenazioni, le solfonazioni, le nitrazioni. Ci possiamo fare anche le riduzioni e le ossidazioni. Perché, per esempio, c'è il reagente che mi sembra si chiama di Sarret, è l'addotto CrO3 piridina. CrO3 piridina. Ai miei tempi si faceva CrO3 piridina. La prima volta che feci questo reagente nella mia vita fu nel 1981 e me lo ricordo bene perché ero fuori dall'Italia a fare una cosa per un altro laboratorio europeo e allora questo reagente si comprava, ci aveva i soldi, ma io venivo dall'Italia e quindi non avevamo soldi, io cercavo di fare tutto da soldi, non chiedere al mio capo di laboratorio, sa, mi serve questo reagente, no, cerchiamo di farselo. Quindi, CR3 piridina. CR3 piridina, per ogni CR3 ci sono due piridine, perché il cromo ovviamente è un D6, CR3 fai conto è fatto così. Se questo è un D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, questo cromo va a 0, 0, perché è un D6, quindi c'ho 0 elettroni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, piridina. 13, 14, 15, 16. I due azoti della piridina danno un complesso stabile. Sostanzialmente un triangolino fatto così, con un apice sopra e un apice sotto, cioè una bipiramide triangolare. Il cromo è un metallo abbastanza soft e quindi agisce sul doppio legame soft dell'azoto, che occupa gli orbitali in posizione 1 da una parte e 1 dall'altra del cromo sul piano dei tre ossigeni. Ci guadagna un sacco di chilocalorie, per cui quando te metti la piridina con il cromo si sviluppa una reazione tale che si incendia la piridina. Per questo il problema è come mettere l'acido solforico con l'acqua. Cosa metti? L'acido solforico nell'acqua o l'acqua nell'acido solforico? Ecco, perché se fai la operazione sbagliata la pigli nel muso. Ovviamente, in questo contesto quindi quello che si fa è che si prendeva la piridina e ci si aggiungeva poco per volta CrO3, perché se tu fai il contrario la piridina ti piglia fuoco. In un bagno di ghiaccio si ottiene questo prodotto, si filtra, il solvente che ti utilizzi è il cloro di metilene, puoi eliminarlo tranquillamente, ma te ne freghi anche perché poi di solito si usa cloro di metilene per fare questa reazione. Oggi nell'industria il cloro di metilene è accettato solo per fare le purificazioni dei solventi, non tanto per farci le reazioni, però dove non si può, bisogna usarlo. La dottopiridina CrO3 permette di trasformare un alcol primario in aldeide. Non mi posso permettere il lusso quindi di usare reagenti come l'acido solforico, il reagente di Jones, no? Acido solforico e bicromato durante la distillazione. L'alcol viene messo in distillazione e durante la distillazione gli si aggiunge in un imbuto gocciolatore una miscela di acido solforico e bicromato. Scende l'agente ossidante, prende l'alcol, lo ossida, l'ossidazione fa ottenere l'aldeide, l'aldeide ha un punto di ebollizione sicuramente più basso, parte immediatamente perché c'è un calore della Madonna nell'ambiente di reazione, si distilla e si toglie dalle palle, perché se rimanesse lì sarebbe la fine perché si riossida. Fare la reazione vuol dire fare questa reazione sotto azoto perché l'aldeide si ossida immediatamente, quindi ci sono delle difficoltà. Devi scaldare, devi usare l'acido solforico, il bicromato e così via. Questa è sicuramente una reazione che fai a 25 gradi. In un pallone di reazione non succede niente, non c'è pericolo, non devi neanche scaldare, lo fa da solo. Si possono ossidare con una lentezza più importante anche alcoli secondari a chetoni. Questo prevede che se te in un composto polifunzionale tu abbia un aldeide e un chetone, riesci riesco a ossidare l'aldeide senza toccare il composto carbonilico. Esattamente. C'è un altro reagente che è simile a questo, che è il biossido di manganese. Ma di questo semmai ne parleremo più in là. Si può utilizzare la piridina. Ah, qual è il contributo che la piridina dà a questa reazione? Dunque, innanzitutto non si lavora nell'acqua. E questa è una cosa importante perché in qualche modo noi dobbiamo controllare quello che è il potenziale di semi reazione ossido riduttivo, che dipende dal pH fortemente. Lavorare in un solvente come il cloro di metilene ci permette di non avere a che fare con l'H+ e l'OH-, ma ci permette anche, d'altra parte, avere la presenza forte della piridina in soluzione, che tampona, comunque tampona, blocca l'acidità dell'ambiente, anche se parlare di acidità e di basicità in un ambiente non acquoso non è proprio corretto, perché non si parla di pH, si parla di costante di Hammett, una cosa più complicata, però questa presenza della piridina prevede che comunque il potenziale ossido riduttivo del CRO3 sia calmierato e te più dell'aldeide non vai, sostanzialmente. Questo è l'aspetto della questione. Abbiamo usato la piridina come coreagente, come sale di piridinio, per fare le ossidazioni, potremmo utilizzarlo per fare delle riduzioni. È certo. Perché? Prendiamo, per esempio, una molecola come questa. Che ci piace tanto. L'indolo. Il mio primo amore. La Hesse. Non perché fa parte dell'acido lisergico o della NL di ketamina o del peyote o del mescal, ma perché ci ho fatto la tesi sopra. È una cosa molto più semplice. Allora, il signor Herbert Karl Braun, che ha fatto tutto sulla riduzione col BH3, si è inventato qualche reagente speciale per fare delle reazioni che all'inizio della sua carriera non gli sono mai venute. Brown, va detto anche nella vita, che ha pubblicato anche un sacco di puttanate. Cioè, come tutti un po' spinti dalla idea di essere egoicamente dei ganzi, di aver scoperto di tutto, pubblichi tutto. Il tuo gruppo di ricerca c'ha un sacco di soldi, c'hai un sacco di studenti che lavorano per te, tu non controlli bene che cosa sta succedendo e vengono fuori sovente delle reazioni che non sono vere, non sono valide. Questa è una di quelle, però ci piace dirlo perché serve per fare una cosa. Se io ho l'indolo e lo voglio trasformare in diidroindolo, questo, ho bisogno di ridurre il doppio legame. E non è che il doppio legame riesco a ridurlo con l'idrogeno del palladio. Allora ci vorrebbe un idruro. Perché ci vorrebbe un idruro? Perché l'indolo ha una caratteristica fondamentale. Se noi lo guardiamo da un certo punto, è vero che è aromatico, però è una enammina. E quindi ha un po' di reattività, un po' di reattività di questo tipo, no? La reazione di Mannich è l'indolo che reagisce con enammina. Ok. E allora il BH3 gli fa qualcosa? Il BH3 non gli fa niente, o il diborano, B2H6, o il BH3 tetraidrofuranato, perché l'idruro, o comunque il legame BH, si possa agganciare al doppio legame di una enammina, ci vuole un idruro sufficientemente soft. Devo far diventare BH3 ancora più soft. E allora? Ci metto un legante soft, e il legante soft è il doppietto della piridina. Perché il legante soft? Perché quando io mi trovo di fronte a questo addotto, che ora è diventato commerciale, sicché vuol dire che funziona per fare certe cose, sta carica positiva va in giro in tutta la molecola dell'anello eteroaromatico, e quindi ho un legante stra-soft attaccato al boro. E la softness del boro idruro aumenta perché io ci ho agganciato una cosa soft. Accadrebbe il contrario se io ci aggancio una cosa hard. Morale della favola: posso emulare la hardness dell'idruro di boro attaccandoci qualcosa che abbia una softness differente. Ecco perché si sente dire: guarda, ho usato l'addotto dimetilsolfuro BH3. Ecco da dove viene l'idea fondamentale. Non tanto di dire BH3 è gassoso e lo maneggio male, ma non solo, perché il dimetilsolfuro BH3 è un liquido. Con la pipetta lo prendi, te ne servono 10 ml, con la pipetta lo prendi, lo metti nel reattore e la reazione va. Invece il BH3 tetraidrofuranato, te te lo devi fare con un'apparecchiatura abbastanza complessa e poi devi titolare il BH3 che hai fatto gorgogliare nel tetraidrofurano mentre lo facevi, lo devi titolare. Quindi ci sono delle problematiche. Il litio boro-idruro che te hai utilizzato si deve sciogliere nella diglima, devi distillare la diglima, devi fare tutto sott'azoto, il tetraidrofurano deve essere distillato sul litio boro-idruro e sul sodio. Ci vuole 3 giorni. Invece così, questo lo compri, ma sostanzialmente è facile da farsi, molto più facile. E in questo contesto, la enammina, ti ricordo, ha una struttura di questo tipo qua. Quello che succede di questi alcheni è che la formula limite di risonanza mi dice che sostanzialmente questo è caricato meno delta e questo sostanzialmente gli elettroni li butta qua, li riceve di qua, non ha grandissima differenza da quello che era originariamente un alchene. Un alchene era così. E gli elettroni si ficcano qui. Questo è così. E gli elettroni si ficcano qua. Quindi l'orbitale pieno di elettroni diventa hard. Un'enamina reagisce con l'H più all'istante. Ma bisognerebbe che reagisse anche con l'H-. Un alchene con gli H- non ci reagisce. Il litio all'idruro e gli alcheni si guardano tra di loro. Per far reagire un alchene con il litio all'idruro devi scaldare 2000 gradi in autoclave e fare delle cose tremende. Non lo fa. Allora cosa fai? Hai fatto diventare soft questo orbitale qui. Allora ecco che ci vuole una softness precisa perché sennò il BH3 da solo evidentemente non ce la fa. O con grande difficoltà, hai softizzato l'H- ancora di più e l'H- ti entra qui dentro e quindi te cominci ad avere la possibilità di avere un processo di riduzione. Quindi sei riuscito ad ottenere l'addizione al doppio legame carbonio-carbonio dell'indolo in posizione 2-3. La succede quindi e ottenere, scriviamo, qui ci attacca il positivo e qui ci attacca l'idruro. Quando te vai a idrolizzare questo, si utilizzerà il legame boro-carbonio, si idrolizza con l'acido acetico o l'acido propionico a caldo, ve lo ricordo perché io non avessi fatto la chimica di legame carbonio-boro, questo non è un reattivo di Grignard. I boro-alchili sono stabili, li butti nell'acqua e ci galleggiano sopra. Non sono come gli alluminio-alchili che se li butti nell'acqua fai una fiammata fino al terzo piano. Il boro-alchile è stra-soft, per cui il boro-alchile ha paura dell'ossigeno, dell'aria, perché si ossida immediatamente. Questo per chi ha fatto i boro-alchili e gli alluminio-alchili è normale, ma so che magari voi a livello di organometalli non so da che punto venite e quindi il boro e l'alluminio sono uno sopra e uno sotto la tabella periodica degli elementi, però hanno un hardness completamente diverso. Quindi ci vuole l'acido propionico a caldo perché il legame carbonio-boro è soprattutto un legame covalente, quindi non è un legame carbonio-magnesio che basta l'acqua per scinderlo. Ok, bene. E quindi ottieni il prodotto finale. Ricordiamoci che un legame carbonio-boro può essere utilizzato per farci qualsiasi cosa, perché al posto del boro io ci metto qui quello che voglio. Nella chimica di Herbert Carl Braun. Allora, abbiamo anche scoperto come possiamo softizzare o hardizzare il BH3 a seconda della legante che ci mettiamo sopra. Va bene, e fin qua ci siamo. Sì, c'è un altro reagente che è veramente un toccasana. E quest'altro reagente è il dimetilcarbonato. Lo scriviamo. Metileo COO metile. Allora, una delle cose fondamentali che si fanno nella chimica industriale è fare eteri ed esteri. Eteri ed esteri si fanno dai corrispondenti alcoli ed acidi per sostituzione di un idrogeno con una base, per esempio prendiamo ROH, tratto questo con sodio idruro, sodio idruro fa R o meno lo faccio, lo tratto con un agente alchilico e faccio ROR. Analogamente RCOH lo devo trasformare di solito con COCl2, ahimè, in RCOCl, questo lo devo trattare con R' o meno, o R'H, perché se no sparo veramente con un cannone su una farfalla, facendo meno, capisci? E poi succederebbero delle altre cose, R'. Questo è quello che accade sostanzialmente. Sono delle reazioni complicate, cioè in laboratorio le facciamo, ma qui ci vuole il tetraidrofurano e il sodio idruro. 12 ore di ebollizione, gli idrolini di sodio idruro, H-. Come mai l'H- che è un idruro, H-, ci mette così tanto a mangiarsi l'ROH? 12 ore a ebollizione del tetraidrofurano. Clip, le bollicine di gas che vengono su una dopo l'altra, te vai a prendere il caffè, cioè pensare di fare la reazione così, se... e poi il giorno dopo devi fare un'altra reazione aggiungendo l'ossigeno alchilico che devi essere distillato, sperando che non ti faccia la reazione di eliminazione, un macello, per ottenere questa che è la reazione di Williamson in catalisi basi. L'H- è soft, l'H+ è hard. Non ce la farà mai il NaH con facilità a togliere un legame, a togliere un protone acido. Questo è il motivo di questo fatto. No, perché uno pensa all'idruro, l'idruro è forte. Ecco, l'idea del soft e dell'hard ti dà l'idea in realtà che le cose devono essere modificate. Da questo punto di vista, reazioni complicatissime. Questo, cloruro di fosgene, cloruro di ossalile, non se ne parla nemmeno. Potremmo utilizzare il clorio salile, potremmo utilizzare l'SOCl2, potremmo utilizzare il PCl3 o PCl5. Tutti questi composti qui non vanno bene, non si usano più, non si possono più utilizzare. In realtà non si dovrebbero più utilizzare perché sono dannosissimi per tutta quella serie di problematiche che la green chemistry non sa affrontare. Cioè, prima disperdere la roba nell'ambiente alla fine della reazione, tutti questi sottoprodotti di reazione che non sai mai come, soprattutto quelli gassosi, cioè l'SO2 in questo contesto, l'ossido di carbonio, la CO2 in quest'altro contesto, l'acido cloridrico, sono reazioni che te devi fare sotto K. L'ossido di carbonio te non te ne rendi conto perché non se ne sente l'odore, ma è tremendo, è come il cianuro. Ti piglia il ferro dell'emoglobina, ci si appiccica sopra e lì sopra non ci va più l'ossigeno che l'emoglobina si deve portare in giro nel sangue. Siccome poi sostanzialmente noi abbiamo 4 grammi di ferro in tutto il corpo, bastano poche molecole di CO per ammazzarli tutti, gli atomi di ferro. Quindi non si può più fare, c'è sempre l'operaio che fa una cazzata. Ecco. O un'apparecchiatura che si rompe, o comunque non si dovrebbe rompere, ma se si rompe non deve succedere. E allora bisogna cambiare la strategia. E la strategia è stata offerta da questo composto qui. Questo composto qui, partiamo e lo riscriviamo, il dimetilcarbonato, è l'acido carbonico H2CO3 sotto forma di diestere metilico. Poi vedremo che possiamo usare anche altri esteri, ma intanto vediamo cosa succede col metilico. Succede questo. Se io ho un anione, R o meno, o anche l'alcol con il doppietto di elettroni, questo poteva fare questa reazione metile. Questa e questa. In questa reazione quello che accade è che si forma il mio prodotto RO metile, l'etere metilico, si sviluppa CO2 che non torna indietro, e metile o meno che viene buttato fuori. Che meraviglia! Il dimetilcarbonato lo puoi bere, non fa niente. Il dimetilcarbonato non prende fuoco. Il dimetilcarbonato non ha una elevata tensione di vapore. È un reagente che è estremamente poco pericoloso. Però C'è un problema, bisogna farselo. Perché deve diventare, se te lo vuoi usare, un reagente a basso costo. Quindi lo devi fare in modo green e soprattutto non utilizzando reagenti pericolosi. Come si faceva il metilcarbonato? Si faceva così, metossido più Cl, CO, Cl. 2 di metossido, ma questo non lo puoi utilizzare. E ho capito che con questo sistema te, questo signore, lo ottieni, ma questa reazione non va più bene. Era necessario che l'industria trovasse un sistema alternativo per ottenere, per fare questi prodotti, perché sennò altrimenti non li potevi utilizzare. E allora l'idea iniziale, gli industriali sono strani, hanno una sensibilità che il chimico organico non ha. Mettono molecole piccole a reagire dentro e ogni tanto gli vengono fuori dei prodotti che sono interessanti. Loro non sanno perché, però li usano. Allora, ci vuole questo, ci vuole NO2, ci vuole un metallo che sarà il catalizzatore. Ora vedremo che questo metallo ha una caratteristica fondamentale. Ci vuole, ovviamente, mi sono dimenticato il meglio, l'ossido di carbonio. Ora noi guardiamo questa reazione, cerchiamo di scoprirne un meccanismo e scopriremo che noi questo meccanismo lo avevamo già fatto in una reazione precedente, ma ci sembra di assolutamente di non riconoscerlo. Allora, il metallo, allora, come metallo loro hanno usato delle cose più strane, più diverse del mondo, zeoliti, ossidi di alluminio e magnesio messi insieme, metalli di transizione. La cosa non è importante, basta che ci sia un supporto metallico che abbia degli orbitali liberi, perché il metallo comunque fa sempre la stessa cosa, quella che fa il magnesio nel reattivo di Grignard. Il metallo si introduce nel legame idrogeno-ossigeno. Questa è una cosa che fa la chimica organometallica fine, si vede benissimo. Lo fa il palladio, lo fa il nickel, lo fa il ferro, lo fa il rame. Bene. Questo perché è un meccanismo di inserzione analogo al RX, vedi, RX che dà RMX, hai preso una cosa positiva e una cosa negativa e nel mezzo ci hai messo il metallo, è sempre un singolo electron transfer. Perché la cosa accada qui, bisogna che RX abbia un orbitale fatto così in modo tale che il metallo voglia metterci gli elettroni dentro, qui o qui, che è uguale. Per cui il magnesio fa bene queste reazioni con un R alogenuro, un metallo diverso con reagenti differenti riesce a fare questa cosa con un HOR. Questa è la parte X, vedi? Questa è la parte R. Sia alchile che idrogeno vengono comunque a marcare il fatto che ci sia un orbitale fatto così in cui il metallo mette dentro gli elettroni. Funziona così. Benissimo. Allora, una volta che noi abbiamo metile o metallo con tutti i suoi vari reagenti a secondo dei brevetti che hanno utilizzato, che non ce ne importa nulla, questo reagisce con il CO, ovviamente. Soft. E quello che succede è metile O, metallo C, che varierà a meno, poverino, O più. A questo punto l'idruro salta qua sopra, migra qua sopra, metile O, metallo C, doppio legame O, H, reazione di eliminazione riduttiva, si libera il metallo che andrà a fare i suoi lavoretti, metile O, COH. Ecco a cosa serve l'ossigeno che ci hanno messo dentro. Se non ci metto l'ossigeno, questo non si ossida a metile O, COOH, che è fondamentale per metterci l'altro gruppo. L'esterificazione dell'acido. Ecco che abbiamo trovato anche a cosa serve l'ossigeno. Questa reazione qui è l'ossosintesi. È uguale. Quando noi avevamo l'alchene, ci mettevamo il metallo idruro, il metallo idruro faceva così, vedi, eccolo qua, metallo idruro, questo è il gruppo R, ci si aggancia al CO, più, meno, l'idruro si attaccava qui, è la stessa reazione, è l'ossosintesi, solo che non se ne è accorto nessuno, cioè è importante comprendere come al solito le reazioni in chimica organica sono pochissime, i meccanismi sono sempre gli stessi. Qua, la chimica di Brown del boro alchile è una chimica identica a questa. Le reazioni di trasposizione anionotropica che il gruppo R- fa sul il borato è la stessa cosa. Mi sto riferendo a questo. R, B con due zampette, O, OH, a questa reazione qui. Questa trasposizione qui è la stessa reazione che questo fa andando qui. Lui butta, c'è uno che attira gli elettroni, c'è uno che è un buon gruppo scende, c'è l'OH che esce bene. La trasposizione di, come si chiama? Beckmann, la trasposizione di Beckmann è identica a questa cosa qui, è identica, quindi sono tutte la stessa reazione sostanzialmente, ma non basta, mi sono fatto questo prodotto, me lo faccio in un modo migliore, metile, perché poi si scatena la lotta ai brevetti. Epossido, ossido di propilene. Il solito metallo. Il metallo si inserisce sempre nel legame. Metile, ossigeno, metallo, così. CO2, che è molto meglio dell'ossido di carbonio da utilizzare. La CO2, prima si complessa qui, poi questo è un legame ossigeno-metallo, quindi è uno meno, no? Un alcolato. L'alcolato con la CO2 che cosa fa? Fa metile OCOO metallo. Eliminazione di questo signore, cioè è un'eliminazione riduttiva questa qui, quindi non cambia nulla. Metile OCOO. E qui questo prodotto è il metallo che torna in giro per fare turnover. Da questo punto di vista qui, quello che succede è che faccio reagire questo col metanolo. Metanolo meno di qua, metanolo meno di là, questo si apre così, si ottiene il mio dimetilcarbonato e l'1,2-propandiolo. Lo disidrato, non lo butto via e riottengo questo. Ecco dov'è il ganzo della questione, non si butta via niente in questo secondo modo di approcciare al sistema. E io mi sono fatto l'NN di metilcarbonato. E già, e qui si apre un mondo. Perché? Perché si scopre che con l'NN di metilcarbonato io ci faccio veramente un sacco di cose, ma delle cose che sono incredibili. Veramente guardiamo l'NN di metilcarbonato un pochino più da vicino. Intanto ti ricordo il nucleofilo, ovviamente il nucleofilo fa così. Questo fa così, questo fa così, riscrivo la reazione, nucleofilo metile più CO2 più O metile me. Questa è solo una delle due facce della medaglia, perché ce n'è un'altra di facce della medaglia. Nucleofilo meno più metile CO, CO. Qui sopra, con fuoriuscita di questo, nucleofilo COO metile più metile o meno. Anche questo è possibile. C'è un problema. Step 1, step 2. Il problema è questo, sostanzialmente. La prima l'ho scritta bene, la seconda manca un pezzo. Questo. Banale, eh? Mancava solo questo pezzettino qui. Reversibile. Allora, questo che cosa vuol dire? Che questo è sotto controllo cinetico. E questo è sotto controllo termodinamico. Va bene. Ma poi c'è un altro aspetto della questione. Questo nucleofilo qui è soft, perché questo è soft. Ma questo nucleofilo qui è hard, perché il carbonile, carbossile, è hard. Allora, la reazione comincia ad avere una certa serie di ipotesi di probabilità. Che cosa succede quando io faccio reagire un nucleofilo soft, come un alcol, una ammina o un alcolato soft, un sale, un sale, un amiduro soft? Succede la parte di sopra. Te lavori a bassa temperatura, questa reazione accade, non si torna più indietro, non c'è nessun problema. Ma che cosa succede quando io ho un nucleofilo hard? Temperatura bassa. A temperatura bassa, quello che accade è che questa reazione prende la mano e ti fermi qui. È vero che ti fermi qui, ma se aspetti, scaldi e vai avanti e indietro, torni indietro. E dopo un po' questo gli viene voglia di fare qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Morale della favola. Con un nucleofilo soft te ti pigli solo un prodotto, quello di sotto. Con un nucleofilo hard puoi decidere quale dei due prodotti prenderti. Perché se lo fai in modo reversibile, torni indietro e ti prendi quello che sarebbe il prodotto soft. Bene, vediamo se riusciamo a cavarci qualcosa. Così si vede anche la potenzialità di questa reazione qui. Allora. Fenile CH2X con X uguale COOR CN NO2, tutti i gruppi elettroni attrattori. Vediamo che succede. Tratto questo con una base che di solito è metossica. Quello che succede è che io otterrò l'anione. Quest'anione, bontà sua, se è un anione hard, attaccherà il sito hard e butterà fuori il metanolo. Il metossido che io ho ottenuto rivede questo idrogeno qui e dice: cavolo, ma questo è ancora più acido, cioè ancora più soft. Lo strappo cinema. Diciamo che scambiamo un po' e questo reagirà con un'altra molecola di metil carbonato, ma questo è soft ora e si prenderà il metile. A questo punto, però, se io scaldo, il metossido che ho dentro mi agisce qui e mi darà la reazione reversibile. E io ottengo, alla fine, CH metile X. Quindi io ho ottenuto il prodotto di aggancio del metile, come se la mia reazione fosse stata semplicemente quella dettata da un anione soft, ma in realtà non si capiva come mai io di dimetilcarbonato ce ne dovevo mettere due, perché sennò la reazione mi si fermava a metà. E quando la gente ha scoperto questa cosa, ha compreso che il meccanismo di questa reazione era lievemente più complesso. Ma capisci a me che te a questo punto puoi decidere di fare delle cose molto interessanti. Per esempio, ARO- più di metilcarbonato. Voglio fare ancora più sensibile. RO- più di metilcarbonato. Questo, anche sotto forma del suo sale, RO-, è soft, perché la carica negativa finisce su tutto l'anello aromatico. Quindi te non potrai che ottenere subito ARO metile. Qui ne parliamo, perché RO- può essere hard. Se è hard, te puoi ottenere questo, RO, CO, OR, però questa è una reazione di equilibrio, per cui questo poi alla fine, in un modo non di equilibrio, può dare questo. E te puoi scegliere di ottenere sia questo che questo. Già, ma se ottieni questo, lo puoi ottenere anche da quest'altra parte. Allora, guarda che puoi ottenere con questo sistema dei carbonati che non sono quelli di metile, ma sono carbonati diversi. Per esempio, di benzile. Mettere un benzile su un etere vuol dire aver protetto l'etere, perché dopo il gruppo benzilico si toglie per riduzione con idrogeno e palladio. Metterci un isopropile vuol dire fare prodotto che poi ci metterà l'estere isopropilico, che ti può servire se te hai bisogno di un particolare ingombro sterico. Ed in ogni caso, su composti che hanno idrogeni acidi, come quelli che abbiamo visto prima, puoi fare due cose, cioè puoi metterci o il metile, o l'isopropile, o il benzile, se vuoi, o anche qualsiasi altra cosa, alla fine, oppure puoi fare l'allungamento della catena di carbonio. L'allungamento della catena di carbonio, una volta si faceva, si prende l'alcol, ci si fa con l'SOCl2 il cloruro, con il cloruro si fa il reattivo di Grignard, con il reattivo di Grignard si fa la CO2, con la CO2 si fa l'alcol con litio alluminiduro. Porca puttana, ci abbiamo messo una riga. Invece con questo sistema, questa molecola che è di metilcarbonato sostanzialmente è un sintomo C1, perché te hai aggiunto una molecola di CO2 già protetta con il gruppo metile dall'altra parte. I vantaggi di questi tipi di reazioni sono estremamente interessanti. E va detta anche un'altra cosa, che queste reazioni potrebbero essere utilizzate anche con le ammine. Noi sappiamo come è difficile fare le ammine, perché sui libri c'è scritto che le ammine si fanno con la reazione di Hoffman. Allora, l'unica reazione che non va usata per fare le ammine è la reazione di Hoffman. Sì, bella, meravigliosa, vecchia quanto ti pare, perché? che non la sai controllare, ti fai la linea primaria, secondaria, terziaria, sai l'armonico, poi devi separare, quindi casino. Quindi le armine si fanno in tutto un altro modo. Uno dei modi in cui si possono fare le armine è questo: prendi una RNH2, la tratti con il dimetilcarbonato e ci fai dimetilcarbonato, ci fai RNH metile. Se fa prima. E ci ho messo il metile perché di solito il metile nelle ammine è il gruppo finale. All'inizio ci si mettono sempre, quando io voglio fare una trialchilammina con tre gruppi diversi, bisogna che il gruppo più reattivo ed il gruppo meno ingombrato lo metta alla fine, perché se no non ce lo metto. Ecco, quindi teniamo presente questo, però è una strategia che io indicavo sempre comunque a livello di organica 1, perché il capitolo finale è come si fanno le ammine, e lì viene fuori tutto di più. Che te devo dire? È evidente che di queste reazioni ce ne sono un sacco, però sostanzialmente quello che mi premeva mostrare a questo livello qui è questa cosa qui. Quindi ricordiamoci la chiave di lettura di questa reazione, quindi metilcarbonato alla grande, non piglia neanche fuoco, c'è un punto di fiamma altissimo. Sono reazioni che te non hai bisogno, nel caso in cui tu non debba per forza lavorare su un anione, ma ti basta un doppietto di elettroni, non, le fai in un becher, non ci vuole atmosfera inerte, particolari problematiche. Bisogna essere abbastanza puliti, io chiaramente cerco di usare sempre, di fare delle reazioni con i prodotti distillati perché a me l'acqua mi fa schifo, ma come sovente succede in alcuni laboratori in cui purtroppo non ti interessa la resa ma ti interessa solo 30 mg di prodotto per fare il polimero, quindi io ho visto gente che parte a 300 g di monomero per fare 30 mg di prodotto, che è una cosa non coerente. Per la teatro a me ne basta 30 mg, ci faccio il polimero, faccio l'infrarosso e scrivo l'articolo. Allora te che cosa hai fatto? Il prodotto per scrivere l'articolo, cioè ti servi della chimica per fare la carriera. Non è così. La chimica, te devi servire alla chimica perché in realtà devi capire come è fatto il mondo. È un aspetto che proprio il chimico a volte industriale perde di vista. Il chimico organico ormai non c'è più, quello puro, il purista, il chimico puro che si chiamava una volta così, non c'è più. L'ultima cosa, che è un richiamo un po' di chimica, se vogliamo, volevo richiamare questo particolare. Esistono 13 meccanismi diversi, teoricamente ce ne dovrebbero essere 14, 13 meccanismi, però uno non è mai stato visto, di transesterificazione. C'hai un estere, vuoi trasformarlo in acido e alcol. Esistono 13 meccanismi diversi. Allora, RCO o qualcosa. Va bene? Carbonio. Quando usi l'H+, si attacca qui. L'acqua viene di qui e si forma questa cosa qui che se ne va. Quando usi l'OH- si attacca qui. Bene. Bisogna stare attenti, perché questo poi lo rivedremo nei prossimi capitoli. Ciò accade quando questo signore, cioè il gruppo alchilico, sostanzialmente è piccolo. Scusate, è grosso. Perché? Perché se il gruppo R è piccolo, quindi con un metile, e questo è un buon gruppo uscente, questo dipende da che cosa c'è attaccato qua, il meccanismo che noi stiamo facendo è questo. Un altro meccanismo è quando qui c'è il gruppo alcolico, è grosso. Perché quando questo gruppo alcolico è grosso, è vero che l'H+ si attacca qui, si forma il carbocatione, lo scriviamo per un attimo, cerco di per farvi collegare le cose, terziario butile, metile, più, questo fa una cosa che un metile non avrebbe mai fatto, così, così, e questo esce come gruppo terziarbutilico, più. Con il metile non lo potrà mai fare, quindi quando noi abbiamo un estere, noi possiamo avere la classica idrolisi dell'estere, e cioè l'H+ che attacca sull'ossigeno o l'H- che attacca sul carbonio, ma possiamo anche avere il nucleofilo, l'OH- per esempio, che attacca qui, e questo esce perché c'è un buon gruppo uscente, pensa ai solfonati che sono esteri uguali, oppure l'H+ che arriva qui però si stacca il gruppo R della parte alcossilica perché dà origine a un buon gruppo uscente. Questo ultimo meccanismo è quel meccanismo che si usa nei gruppi protettivi degli amminoacidi, il famoso BOC. È per questo che io cerco di fare un po' degli agganci, no? Per farvi ricordare che questa qua cioè non c'è nulla di nuovo dietro a questo modello qui di chimica. Bene, io mi fermerei qua e la prossima volta ci toccheranno i sali d'ammonio quaternari, quindi le reazioni di trasferimento di fasi. Oi oi, con tutto quello che ne segue. Prego. Dunque, sulle date degli esami noi ci mettiamo d'accordo. Perché? Perché gli esami, innanzitutto gli esami siete voi che li dovete dare, quindi perché li dovrei stabilire io? Vabbè. Punto numero uno. L'unico punto che vi voglio sottolineare è, lo ripeterò anche magari con gli altri, io il primo ottobre del 2017 sono in pensione. Quindi. No, prima. Anch'io... Certo, però vi devo dire, se qualcuno avesse intenzione di darlo dopo questo esame, sappia che io non ci sarò, perché io per legge devo essere presente all'esame un anno dopo che ho dato il corso, però io darò una lettera di dimissione alla segreteria per ragioni di salute, okay, o di qualsiasi altra cosa, scomparirò dalla faccia della terra e nessuno saprà più dove sono. Quindi io ve lo dico in anticipo, capito? Perché se no, capisci?